Beh, sicuramente è stato pagato anche una cifra, probabilmente 12 milioni di dollari, questa è la cifra che si dice sia stata pagata. Ecco, ma tu pensi che il comportamento americano sia anche figlio di questo pagamento, che loro erano contrari, insomma? Beh, loro erano assolutamente contrari, certo, l'hanno detto fino all'inizio, hanno tenuto sempre questo punto di vista, anche se informalmente loro a volte trattano, fanno trattare altri per conto loro, certo. Però sicuramente erano contrari a questa trattativa. Ecco, ma secondo te i riscatti vanno pagati oppure no? Secondo me sì, vanno pagati, naturalmente andrebbero create le condizioni per cui i rapimenti non ci fossero. No. Ecco, questo era l'ex direttore del Manifesto, Gabriele Poro, lo ripeto, che ha scritto il libro Il mese più lungo sulla vicenda di Calipari. Oggi noi, per completare l'informazione su questo tragico evento, abbiamo sentito anche il professor Nicolò Pollari, che all'epoca dei fatti era il capo del SISMI e quindi guidava tutte le operazioni e servizi, compresa quella di Calipari. Ma è vero che è stato pagato un riscatto, professore? Guardi, questa domanda la si fa sempre dopo la liberazione degli ostaggi, stranamente mai prima. Mi meraviglio di questo, perché è una preoccupazione, una questione che forse meriterebbe un approfondimento preventivo più che un approfondimento successivo. Comunque, cioè in generale i riscatti si pagano o non si pagano? Guardi, allora le dico subito, la risposta canonica è quella che diciamo così io le debbo, sì. È che le modalità di liberazione sono coperte dal segreto di Stato. Sì. Perché di norma conseguono ad atti di approvazione politica. E questa è la risposta obbligata, ma ce n'è anche un'altra o no? Ma guardi, l'altra glielo dico, lei vuole che io dal punto di vista logico le dia una risposta? Sì. Certo che non è impossibile che un fatto simile avvenga, in linea di principio naturalmente. Naturale. Io le posso dire che se qualcuno pensa però che per tutte le liberazioni si paghino riscatti, si sbaglia di grosso. Lei era il capo del SISMI, in quell'epoca l'abbiamo detto. La vedova di Calipari nel libro di Polo parla di una conduzione del SISMI, cito fra virgolette, ambigua, che agiva machiavellicamente su linee opposte e che costarono la vita a Calipari. È così? Guardi, io ho, come ho detto in un'altra occasione, ho sincero rispetto per il dolore della vedova Calipari. Naturalmente. E naturalmente a questo rispetto mi attengo rigorosamente. Fornisco qualche ulteriore precisazione su questa cosa perché lo ritengo doveroso. Certo. Questa frase la riferisce Polo nel suo libro e la attribuisce alla signora Calipari. Sì. Mi sembra poco verosimile che possa averglielo detta per una serie di ragioni, perché io alla signora Calipari, fatta eccezione per nel momento della disgrazia in cui le sono stato particolarmente vicino, non sì. Solo io ma tutto il servizio, va bene, non avevo alcun rapporto con lei, né avevo alcun tipo di frequentazione preventiva, l'avevo incontrata talvolta perché il marito la portava in qualche cena ufficiale o in qualche manifestazione, però non avevo rapporti con lei, né confidenza. Le posso dire che i primi tempi manco non l'avevo riconosciuta per strada, quindi non sapevo neanche chi fosse. Mi ero per la verità occupato di lei quando da vice segretario generale del CESIS avevo curato la sua posizione con riferimento al transito ai servizi, perché lei veniva da un ministero della, perché lavorava anche lei nei servizi, lei transitò da un ministero al CESIS, ecco, però non è che avessi rapporti. Ho capito. Allora francamente non avevo rapporti, non ho mai trattato argomenti di questo genere con lei, né ho mai parlato di queste cose. Quindi lei pensa che sia difficile che gliela detta, che sia sua questa frase? Guardi, io penso che sia molto improbabile, sarebbe una frase poco meditata probabilmente, e comunque penso proprio di no, perché mi sembra che i nostri contegni ex post, dopo la disgrazia, sì. Quando poi l'abbiamo conosciuta, andavano, ecco, in altra direzione. Le due linee però, leggendo il libro, sì. E in qualche modo interpretando anche le parole o l'uso delle parole, sì. Della signora fatta dall'autore, le due linee per semplificare nel libro sembrano essere quelle trattativista di Calipari, quella più intransigente e favorevole al blitz di Mancini. C'erano queste due sensibilità diverse? Assolutamente no. Prima di tutto, scusi, la conduzione del servizio apparteneva alle mie responsabilità, certo, e quindi gli altri facevano quello che lei diceva. Quello che io dicevo, e io facevo quello che mi diceva l'autorità politica, certo. Per parlare chiaro. Sì. E quando si trattava di questioni importanti, questo vorrei sottolinearlo, io mi sono sempre assicurato che l'autorità politica, va bene, si confrontasse con i segretari di tutti i partiti dell'opposizione e ne avesse il consenso. L'ho sempre, non dico preteso perché non avevo certamente la possibilità di pretendere. Però suggerito. Ma diciamo così, l'ho sempre caldamente raccomandato e ho sempre ottenuto i ritorni in questo senso. Ecco, ma... Non c'era nessuna linea diversa nell'uno e nell'altro, né il dottor Calipari e il dottor Mancini erano i monopolisti, diciamo così, dell'azione. C'erano altri titolari di pezzi di azione. Vi erano altri titolari, altre branche, eccetera. Il dottor Mancini, però posso dire, questo mi corre l'obbligo, eccetera, è per sua natura contrario ai blitz. Cioè non ne vuole neanche sentire parlare, proprio ideologicamente. Senta, ma nelle sue dichiarazioni la vedova parla di calipariani. Quindi non esistevano i calipariani, esistevano soltanto i pollariani, se vogliamo dire così. Esistevano funzionari del governo e delle istituzioni che facevano il loro mestiere. Il discorso dei calipariani è una locuzione che io ho visto sui giornali dopo la morte dei Calipari, probabilmente con riferimento a quelle persone che lui mi aveva chiesto di portare al servizio o che con cui aveva una consuetudine maggiore, che sono stati anche loro molto vicini, devo dire, alla sua famiglia a seguito dell'evento. Ecco, probabilmente questa cosa nasce perché, come in tutte le buone famiglie, come in tutti gli ambiti sani, c'era una grande competizione fra i vari responsabili delle competizione professionale. Beh, naturale, dire, certo, quindi fra i vari ambiti, ma mica solo fra loro due, no, c'erano anche degli altri. Professor Polo, ma fra Calipari e Mancini, oltre a questa naturale rivalità, c'era anche una lotta diversa oppure no? Guardi, io rivalità non ne ho mai vista. Io ho visto competizione dal punto di vista professionale, come ho detto. Guardi, Mancini, Calipari, come sappiamo, il compianto dottor Calipari è una persona che ha sacrificato la sua vita per il paese, su di lui tutto quello che si può dire di positivo. Noi abbiamo fatto una puntata della storia. Lui ha una storia di poliziotto, si è occupato della famosa, così, quella che fu chiamata la banda alla lancia meccanica, a similitudine del film, eccetera, quindi ha una storia professionale molto, molto edificante, così come sarà il dottor Mancini per l'altro percorso. Il dottor Mancini, per quanto lo riguarda, insomma, forse molti lo dimenticano. Viene dalla scuola e dalla chiesa, no? Viene dalla scuola della chiesa, ha arrestato 54 brigatisti rossi, tra rossi e neri, vuole che gliene ricordi qualcuno? Oreste Scalzone l'ha arrestato in Francia, Sergio Seggio, che ha catturato vivo, che cosa è? Cavallini e Soderini dei NAR, tutta la, vabbè, così, la direzione strategica della VAR dell'Asia, e aggiungo, oltretutto, era considerato nella sua ambiente, dalla chiesa, eccetera, un fiduciario. Pensi che Patrizio Pezzi, quando si pentì, va bene, era recluso e dormiva in camera sua. Questi sono i personaggi, certo, sono dei personaggi di un certo, tutte e due di un certo spessore, ma erano molto amici. Ma è vero, però, come racconta la vedova, così riporta il libro, che Mancini le fu imposto dalla politica? Guardi, io ho conosciuto Mancini quando sono stato nominato direttore del servizio, perché lui era arrivato al servizio 15-20 anni prima. Le posso dire con franchezza che semmai io ho avuto nella politica qualche indicazione, non esattamente, mi dissero una volta, sai, quando lo volevo promuovere, questo è un comunista, io siccome non faccio politica e non ma le chi voglio gliel'ha fare, detto? Chi è che gliel'ha detto? È un'autorità di livello, non mi dice il nome, no, nome non glielo dico, perché però le dico che io l'ho promosso lo stesso. Senta, la vedova parla anche del caso Abuamar, sì. Dice che Calipari temeva in qualche modo che i suoi uomini non si fossero limitati a osservarlo, pedinarlo, seguirlo, fare rapporti sull'imam egiziano che poi fu rapito e ucciso, è così? Senta, non me ne abbia, io devo esordire con una frase che ha un senso compiuto e ha una sua forza. Sì. Io e il Sismi da me diretto e tutti gli imputati del processo siamo estranei a questa vicenda. Le soggiungo che io, senza tema di smentita, possono testimoniarlo tutte le autorità di governo competenti nel tempo, io ho impedito fatti di questo genere, quindi si figuri un po'. Ma non era questa la cosa di cui siete stati accusati lei e Mancini? Ma assolutamente, assolutamente. Il problema è che io e il Sismi da me diretto, se altri in momenti diversi hanno tenuto contegni non conformi al mio modo di vedere e di interpretare la direzione del servizio, questo è un altro problema. Però, come ho detto, se per caso fosse vero, anche qua lo dice Polo che gliel'avrebbe riferito la signora Calipari, io non lo so se è così, certo, ne prendo atto. Però se fosse veramente così, scusi, e allora a questo punto questo fatto è un reato, questo è un reato, qui c'è un'indicazione di un reato. E i reati non vanno perseguiti, ecco. Presumo che sia inesatta la citazione. No, insomma. O che sia inesatta o che sia anche esatta, ma allora a questo punto andrei approfondita. Nell'intervista che lei ha dato al giornale l'altro giorno, dice di aver accompagnato personalmente l'ambasciatore americano a casa della signora Calipari dopo la tragedia. Perché? Guardi, ho accompagnato l'ambasciatore americano a casa della signora Calipari chiedendole il permesso, naturalmente. Ovviamente. Perché non si va a casa altrui, spesso in quei frangenti, perché l'ambasciatore era mortificato e affranto per quello che era successo e cercavano di fare ciò che di materiale si può fare in una circostanza di questo genere, cioè si offrì di aiutare i figli negli studi, di fare qualche cosa per la famiglia, eccetera. La signora lo ricevette, devo dire, eravamo parecchie persone quando questo è avvenuto, però non ritenne di dover accettare nulla. Ecco, lei dice però sempre nella stessa intervista aver curato ogni aspetto di carriera di familiari Calipari. Certo, perché le dico, Calipari quando venne al servizio, venne perché io ero direttore del servizio e me lo chiese molto calorosamente, molto molto calorosamente. Cioè ci teneva molto, gli piaceva. Ci teneva molto e insistette molto per venire al servizio con me. Devo dire che era una persona di cui mi fidavo moltissimo, come mi fido di degli altri, ed è una persona che diciamo così, ha più che onorato il suo mandato, ha offerto quello di più della vita, cosa dovevo offrire di più. Era chiaro che io avevo il dovere di fare anche in un momento tutto quello che era necessario fare e io ho fatto tutto ciò che era nelle mie possibilità e anche di più. E cioè? Mi sono occupato di loro in modo che, diciamo così, ai pregiudizi di carattere materiale legati alla scomparsa dell'interessato non ne conseguissero altri, anzi potessero avere almeno dal punto di vista materiale dei giusti sostegni. Ma cioè in concreto lei ha promosso Calipari come meritava dopo la sua scomparsa? Io ho fatto quello che la mia coscienza mi ha suggerito di fare e qui mi vorrei fermare. Va bene, senta, quindi secondo lei tra Calipari e Mancini, al di là della competizione sana professionale, non c'erano rivalità di altro tipo? Guardi, allora le dirò, sarò più preciso se vuole. Ecco, fuori dal lavoro, fuori dal servizio, io ho sempre incontrato Mancini e Calipari in genere a casa di Mancini. Li ho incontrati anche in un famoso locale siciliano di Roma e in un altro locale che chiamavano convenzionalmente G, e vicino al Parlamento italiano, dove andavano a pranzo insieme. Vabbè, e quindi insomma, diciamo così, si facevano delle battute anche. Che una amica dico di no, però io non ho rilevato niente di personale. Non ho rilevato nulla. Lei vuole che le dica che abbia rilevato una competizione professionale? Sì, ma non solo fra loro. Ecco, abbiamo naturalmente cercato anche l'onorevole Calipari per sentirla in questi giorni, però in questi giorni ci ha scritto che preferisce non parlare. Mix 24. Io non piango per qualcuno che muore, non ho fatto manco per un genitore che morendo m'ha insegnato a pensare, non lo faccio per un altro che muore. Io non piango quando scoppia una guerra e il coraggio dell'eroe steso in terra, io lo premio con tu fiori de serra, ma non piango quando scoppia una guerra. Perdì. Il giorno più complicato è il venerdì e questo in tema di solitudine è straziante. Anche la metropolitana va a svuotarsi nel fine settimana. Il filosofo oggi mi ha ricordato il motto di Curzio Malaparte: non c'è sabato senza sole, non c'è donna senza amore. Poi c'è la domenica, che è sempre domenica, ma il venerdì mette a dura prova la solitudine, quella che il filosofo oggi ha letto negli occhi di un uomo, occhi senza lacrime, fintanto che poi, appena fuori, ha incontrato un cane vagabondo, come nella canzone di Califano. Questa dell'uomo che ha pianto e dice: mi perdo in quegli occhi senza nome che cercano padrone, in quella faccia di malinconia che chiede compagnia. Franco Califano. Franco Califano, il grande califfo. Sì, senti Mario, prima della tua bolla volevo un tuo rapido commento, perché mi sembra che Pollari ha detto cose importanti. Straordinaria intervista, sai che io sono parco nei complimenti, Giovanni, ma c'è un dato micidiale, che Pollari dice che tutti erano informati, di tutto, anche i segretari dei partiti dell'opposizione, tutti erano informati di tutto. Questa intervista mette fine a un sacco di leggende, Giovanni. Vedremo le reazioni. Vedremo. Intanto andiamo con la bolla. Vai. La cosa buffa è che se domani tutta questa baracca va a puttane, ci metteranno in croce per aver azzardato troppo. Ma se non succederà e ci rimetteremo in carreggiata, quelle stesse persone rideranno fino a pisciarsi sotto, perché sembreremo i più grandi fifoni che Dio ha messo al mondo. Dici che non succederà? Ah, sono tutti fottuti. Allora, questo era un pezzo, un frame di Margin Call, un film straordinario sul fallimento di una banca, e lo abbiamo usato per introdurre un po' di cose sul mondo bancario. Ieri avevamo preannunciato che ci sarebbero stati gli stress test della Federal Reserve, ovviamente sì. Oggi puntualmente cerchiamo di darvi un minimo di risultati. Bene, c'è un numero che impressiona: gli stress test simulano uno scenario di crisi finanziaria per vedere la tenuta dei bilanci delle banche. Bene, le banche americane in uno scenario di severa crisi finanziaria perderebbero circa 500 miliardi, ma sarebbero in grado tutti, a quanto pare, di garantire i requisiti minimi di capitale. Conclusione, dunque, il sistema sembra reggere, anche se naturalmente, sai, una cosa sono le simulazioni virtuali, poi un'altra è la realtà. Quando nessuno prestava più denaro a nessuno negli Stati Uniti, come sai, successe di tutto, certo, poi. Certo. E in Europa, senti qui. Lunedì comincia il quantitative easing. Cominciamo, cioè, noi a spendere. Cominciamo noi a, non dico a stampare moneta, ma insomma ad acquistare un po' di titoli. Draghi si dice sicuro della ripresa, dobbiamo credergli, perché comunque parliamo della Banca Centrale Europea, le cose pare che andranno meglio, poi secondo me tutto questo castello di carta alla fine dovrà finire. Da tanto ne parliamo, sì, di questo castello di carta. Sì, perché i tassi negativi non sono una buona cosa, infatti ci sono dei segnali molto interessanti sui mercati dei titoli su questo punto. Sono i cicli dell'economia. In che senso? Molti contrari, tutti più forti operatori. Pinco l'altro giorno faceva un report sulla possibilità che anche le obbligazioni andassero in negativo, che è un controsenso, diciamo, dell'economia. E Bill Gross faceva una newsletter di febbraio molto interessante. L'economia non funziona con rendimenti negativi dalle mie parti. Salamino. Il fascismo, Giovanni, lo sappiamo tutti, erano i treni ad arrivare in orario. Nell'Italia dei magistrati puntuali sono le intercettazioni. Allora, si tratta di 10.000 pagine di intercettazioni depositate ieri dal perito del Tribunale di Bari. Conversazioni di Silvio Berlusconi private, ma prive di omissis. Ed è l'inchiesta a carico di Giampaolo Tarantini che si abbatte su Silvio Berlusconi. Associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. Allora, per esempio, Berlusconi ha una strega sulla schiena e Tarantini gli offre un angioletto per sollevarlo dal dolore. Berlusconi in quel caso è spiritoso, dice: faccio tutto in forma agonistica e sarà la gara degli invalidi con questo colpo della strega. I nomi poi sono ghiotti: da Belen alla Merkel, da Barbara Guerra estromessa dalla fattoria a Mubarak estromesso dall'Egitto. Ho due bambine, dice Berlusconi, una è una giornalista, l'altra è una brasiliana di 21 anni e però da oggi in poi, buttando le chiavi del carcere, perché di questo si tratta, non si potrà più evocare in alcun modo la locuzione bambina, piccina, che dir si voglia, e pertanto mi vedo costretto a far che a dare comunicazione a voi, no, agli ascoltatori tutti, di alcune proibizioni in tema di canzoni. Ah, un editto. Sì, per esempio, guardate, questa canzone non si potrà cantare più. Bambini innamorata. Beh, fino a oggi Rabagliati magari rischiava perché aveva aderito alla Repubblica Sociale, ma cantava Bambini innamorata. Adesso Bambini innamorata non si potrà cantare più, e peggio, ma peggio, neppure peggio. Questa più si potrà mandare in onda. Ascoltatela per l'ultima volta. Bimba senza pezzi di Sergio Caputo non si potrà più ascoltare, né tantomeno si potrà ascoltare perfino nella versione del Quartetto Cetra. Baciami piccina. Baciami piccina con la bocca piccolina, dammi tanti baci in quantità. Ma questi baci. Dopodiché il fiorentino Matteo Renzi dovrà proibire la primavera, neppure questa. Sono le bambine. Svegliatevi bambine. E allora per l'ultima volta, per consolarci tutti quanti, per fare versione, ascoltiamo l'inno di questi anni che se ne sono andati. No. Adesso sono arrivati quelli tristi, col presidente triste. Colpo grosso, cioè, stiamo volando altissimo. Mamma mia, tu te lo immagini Mattarella che canta cin cin? Sì. No. Allora Sara, dopo aver curato la 3D, ci racconta la sua quota rosa. L'ultimo desiderio di una signora olandese, c'è scritto oggi sui giornali, malata terminale, è stato rivedere Rembrandt. L'hanno portata su una barella a guardare il suo artista preferito, le opere con cui la signora voleva condividere per l'ultima volta i suoi segreti e le sue emozioni. E lo sanno bene i miliziani dell'ISIS che l'arte è così. Infatti hanno raso al suolo il sito archeologico di Nimrud, hanno spazzato via non solo reperti archeologici, ma la possibilità di condividere un valore universale, la bellezza. Per questo combattere l'ISIS è un impegno di civiltà che ha bisogno di alleati, compresa la Russia di Putin. Bravo. Ottimo. Canzoniere! Il ponte deve essere finito ad ogni costo. Ne va della salvezza del quarto corpo d'armata e del viceré. Si farà il possibile. È l'impossibile. Non siamo forse i soldati di Napoleone? E lui ha detto che nel suo vocabolario la parola impossibile non c'è. Non è una replica come temono i nostri ascoltatori, ma è soltanto che da 4 giorni nessuno indovina. Mix 24. Ecco, il premier Renzi è stato a Mosca, abbiamo letto sui giornali italiani i resoconti di questo viaggio, ma i russi che cosa ne pensano? Come ha reagito la stampa russa? Giacomo Augugliaro, che è un siciliano che vive a Mosca e lavora per un'importante società di comunicazione strategica russa. Ecco, Giacomo, pronto? Pronto? Sì, ciao. Ecco, ciao Giacomo. Senti, mi fai un rapido resoconto un po' inedito, diciamo, dei giornali russi o delle reazioni che avete percepito in Russia? Guarda, ti posso dire, sulla base dei giornali che leggo quotidianamente, io leggo sostanzialmente due, uno è il Viedemost e l'altro è il Kommersant, sono i principali quotidiani del business, sì, russo. Che il dicono? Viedemost corrisponderebbe al nostro Sole 24 Ore, al sì, vostro Sole 24 Ore. Sì. E Viedemost ha fatto un titolo dicendo Renzi squarcia il velo di isolamento della Russia. Definendo insomma la visita di Renzi la prima visita di un capo di Stato europeo, non considerando sostanzialmente le precedenti visite di Hollande e della Merkel, poiché queste erano sostanzialmente dirette alla risoluzione dell'Ucraina, del problema in Ucraina, della crisi e l'altro? Della crisi. E l'altro è Commerçante, che invece insomma è un po' critico, ma bisogna anche capire per quale critico ragione. Su cosa? Critico su cosa? Critico sul fatto che ha fatto un titolo il Commerçante, ora vado a memoria, sì. un'instabile atmosfera poetica, cioè? Perché Renzi conclude diciamo il suo intervento citando l'idiota di Dostoevskij, quando dice la bellezza salverà il mondo. L'autore dell'articolo critica a Renzi il fatto di aver fatto un passo così importante, un gesto così importante, di essere venuto a incontrare Putin, però poi di non essere andato fino in fondo, sottraendosi alle domande. Cioè ha criticato il fatto che la conferenza stampa non ci sia stata, sostanzialmente sia stata senza domande, questo? Questo è il punto. Sì, sostanzialmente ha criticato che la conferenza stampa non ci sia stata, ha criticato il fatto insomma che ora in Europa ci sono altri leader e che se ci fossero stati i vari Berlusconi, Schröder o altri, insomma questa instabilità non ci sarebbe stata. Vabbè, questa è un po' l'atmosfera che hai recepito tu. Grazie, sì. E auguri. Bolla. Ciao Giovanni, a presto. Abbiamo dato un momento di allora. Vabbè, questo è il bolero, eh? È il bolero, butta fuoco. Vabbè. Vai. Allora, butta fuoco, ti devo interpellare. Allora, non si può fare niente senza l'Iran in Medio Oriente. Questo lo sapevamo più o meno tutti in Europa, a meno che a Washington, ma vabbè. Ce ne faremo una ragione. Comunque è questa la lezione che ne possiamo trarre dal fatto che le milizie sciite hanno cominciato da qualche giorno l'assalto per liberare Tikrit dalle milizie di ISIS, o dai macellai di ISIS, chiamateli come preferite. Loro stanno bruciando pozzi, uccidendo tutti i soldati che riescono a catturare, e ci sono tre grandi comandanti che sono legati sostanzialmente alle milizie iraniane, che sono Soleimani, al-Muhandis e al-Amiri. Pietrangelo, perché sono così importanti questi tre? Sono importanti perché appunto hanno utilizzato un concetto chiave che è civiltà, e quando si pronuncia il termine civiltà è qualcosa che accomuna non solo l'Europa ma anche quel pezzo d'Asia che è totalmente legato alla nostra storia, tant'è vero che loro, potrei cavarmela col dire, non sono arabi, hanno una preoccupazione tutta persiana, tutta filiale e legata alla nostra storia. Bene, e secondo te libereranno l'Iraq da... Hanno un grande comandante, comandante, e soprattutto la popolazione sta dalla loro parte contro l'ISIS. Bene. Beh, abbiamo chiarito questo punto in modo importante. Il 5 marzo abbiamo il vincitore. Non ci credo, non sono abituato. Matteo da Treviso, oramai pensavo di dover ritornare lunedì. Matteo, buongiorno. Buongiorno. Allora, provi un po'. Il testo è Il mulino e po' di Riccardo Bacchelli. Giusto. Complimenti alla radio Treviso, detto. Treviso, leggete insomma. Lei che fa di bello? Io sono un produttore di prosecco, un viticoltore. In vigneto adesso. Ma bene, in vigneto? Sì, vi ascolto sempre per radio, intanto mi tengo informato sulla situazione. Ah, che bello, bene. Si sente bene lì a Treviso? Sì, oggi c'è anche meno aria rispetto a ieri, c'è un'aria tremenda, oggi si lavora molto volentieri e quindi speriamo di fare una bella produzione quest'anno. Bene, allora auguri per la produzione, complimenti per il Feltrinelli. Mario, ancora una bolla, al rapido. Volo, al volo. Star Wars, questa è la marcia imperiale di Darth Vader. E l'euro è compatibile con la democrazia? Domanda, secondo voi? Sembra una domanda clamorosa. E secondo te l'euro è compatibile con la democrazia? È stato inventato per costruire una democrazia più grande. Non sono compatibile io con la democrazia, quindi non so rispondere. No, insomma, questa domanda è stato creato per costruire una democrazia più grande, no? Sai che questa domanda non se la sta facendo il vichingo Salvini, neppure. Chi? No. Se la sta facendo Foreign Policy, che è una rivista americana molto importante, molto democratica, molto obamiana con qualche delusione, e insomma dicono che dopo le elezioni in Grecia, in Spagna, in Francia, in Italia, la parola d'ordine 999. Accidenti. Non si Beh, fa clamoroso. Niente. Abbastanza. Il 5 marzo del 53 moriva Stalin, l'uomo che per quasi 30 anni ha dominato la Russia del socialismo reale. Marco Durazzo racconta la sua storia, come sempre curata da Marina Milone, che sulla figura di Stalin intervista Achille Occhetto.